24 mattino. Eccoci qui alle 8:17 minuti, ben ritrovati con 24 mattino. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. È il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Alessandro, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Eccoci qua. Allora, oggi parliamo di educazione finanziaria. Esatto. E Dio sa solo quando forse ce n'è bisogno di questi tempi, no? Sì, è vero, questo è vero sicuramente. Saperne di più sui prodotti finanziari, dalle azioni alle obbligazioni, dai mutui al credito al consumo, attraverso progetti di educazione finanziaria. L'economia, d'altronde, è al centro della nostra vita e spesso ci accorgiamo di non saperne abbastanza quando è troppo tardi. Questo è un tema che abbiamo affrontato diverse volte in questi mesi, complice la crisi, ma lo abbiamo affrontato diverse volte anche negli ultimi anni, in cui abbiamo avuto i grandi crack finanziari che hanno fatto scoprire a molte famiglie che avevano fatto scelte di investimento che ritenevano sicure e invece si sono rivelate fortemente azzardate. Il tema della maggior conoscenza delle dinamiche finanziarie è diventato l'idea alla base di due distinti disegni di legge, uno della senatrice del PD Maura Leddi, l'altro del senatore del Popolo delle Libertà Salvo Fleres, che sono stati presentati nei giorni scorsi alla Commissione Industria del Senato. E allora noi, che generalmente non ospitiamo il mondo politico a soldi e dintorni, questa mattina abbiamo invece deciso di farlo, pertanto ci faremo spiegare in cosa consistono questi due diversi disegni di legge, se potranno trovare una strada comune prossimamente e perché hanno pensato di cominciare a introdurre il discorso dell'educazione finanziaria a cominciare dalla scuola. Allora, alla senatrice Maura Leddi, buongiorno intanto e benvenuta a Soldi e Dintorni. Buongiorno, grazie. E buongiorno anche al senatore Salvo Fleres, ben trovato anche a lei, buongiorno. Buongiorno. Comincerei subito con il farvi fare il biglietto da visita dei rispettivi appunto progetti. Senatrice Leddi, allora, su che cosa appoggia la sua idea? Ma è molto, molto semplice e anche lineare. Parte dall'assunto che l'educazione finanziaria è questione che, come diceva lei nell'introduzione, è cosa da introdurre quantomeno nell'insegnamento medio superiore, perché è materia che riguarda tutti e di cui si dà per scontato che sia troppo ostica per saperne qualcosa, e quindi è questione che viene delegata alla conoscenza di coloro che sanno. Ora, come ha anche ricordato lei, non sono questi i presupposti per gestire adeguatamente i propri risparmi. Noi siamo un popolo, grazie al cielo, di risparmiatori, abbiamo nel nostro DNA la capacità di risparmiare, dobbiamo aggiungere anche la capacità di capire, avendo degli elementi fondamentali, elementari, non necessariamente particolarmente sofisticati, ma per capire che cosa accade dei nostri risparmi. Mm-hmm. Dunque, il disegno di legge mira proprio a questo, vale a dire consentire l'insegnamento di elementi di educazione finanziaria nelle scuole superiori e quindi avere una, ovviamente, commissione ministeriale che valuti i progetti di educazione finanziaria che vengono presentati, e quindi la possibilità di costituire un primo nucleo di conoscenza. Parte dall'assunto che in questo momento si è consapevoli delle difficoltà finanziarie che ha il Paese e quindi delle difficoltà ad avere risorse aggiuntive per fare anche un investimento scolari di questo tipo, perché qui si tratta di un vero e proprio investimento anche nel futuro dei nostri ragazzi. Esatto, esatto. Senza la pretesa appunto di fare dei risparmiatori, dei giovani, dei futuri economisti, perché assolutamente si è ben lontani da questa ipotesi, ma comunque fornire loro i fondamentali per capire che cosa sta accadendo del loro denaro. Quindi fornire loro i fondamentali appunto per fare le domande giuste a coloro i quali proporranno loro poi determinate gestioni del loro risparmio. D'altronde, per partire potrebbe anche, no, mi scusi se la interrompo, non particolarmente difficile. Nelle scuole si studia l'educazione civica a partire dalla scuola media, voglio dire, magari si potrebbe tentare anche di pensare ad un'idea di inserire inizialmente in quel contesto, no, l'insegnamento dell'economia e della finanza. Adesso mi è venuta in mente, senatrice Leddi, magari non è necessario neanche un grande investimento per poter portare nella scuola un discorso di questo tipo. No, infatti non è necessario un grande investimento, anche perché si parte dall'assunto che devono essere nozioni fondamentali. Come dire, l'obiettivo è quello di far capire che non si tratta di una materia talmente ostica che non vale neanche la pena di affrontarla, perché di fatto non è così. È vero. Per fare la domanda giusta all'impiegato della banca, al direttore della banca o al gestore del risparmio che ti dice di fare una determinata cosa, quindi fare la domanda giusta per capire un po' di più, non occorre essere degli economisti, occorre però capire di che cosa ti stanno parlando. Esatto. Quindi, e soprattutto nozioni elementari per le domande giuste. Avere dall'altra parte anche della trattativa una figura che abbia un atteggiamento responsabile nei nostri riguardi quando non ne sappiamo abbastanza. Senatore Fleres, con lei abbiamo fatto anche a microfoni spenti prima un discorso di questo tipo, ma visto che parlavamo anche di risorse per poter introdurre l'educazione finanziaria nella scuola, lei in realtà nel suo progetto di legge la risorsa l'avrebbe anche trovata? Sì, noi pensiamo che debbano essere le stesse società finanziarie a contribuire a questa opera di educazione, per il semplice fatto che un sistema più trasparente costituisce una risorsa e per le società finanziarie e per i cittadini. L'Unione Europea ha commissionato tempo addietro uno studio sulla base del quale risulta che l'Italia è tra gli ultimi paesi rispetto ai programmi di educazione finanziaria, ma quel che è peggio è che risulta che molti italiani non conoscono il significato, l'essenza, il funzionamento di una carta di credito piuttosto che di una polizza vita e le differenze tra diverse polizze vita. Addirittura non conoscono la differenza che esiste tra la cessione del quinto dello stipendio e un prestito con una trattenuta. Ecco, noi vorremmo fare in modo che attraverso l'informazione, la conoscenza di questi elementi veramente di base, si realizzi un rapporto tra utenza e società finanziaria e mondo del credito e mondo assicurativo, eccetera, molto più trasparente e molto più diretta. Senatore Fleres, se io non mi sento molto bene vado dal medico che è in grado di individuare la cura che fa il caso mio, se io ho bisogno di una gestione delle mie finanze vado in banca, vado da un consulente finanziario, ma quasi sempre non ho esattamente la percezione di avere la persona in grado di trovare la cura alle mie come dire, esigenze di risparmiatore. Questo è un problema pure arcinoto. Nel vostro progetto, che non è un disegno di legge bipartisan ma è comunque un obiettivo bipartisan, potrebbe trovare spazio anche il discorso di una maggiore responsabilizzazione del bancario che ci fa la sua consulenza, che deve un po' smetterla anche di scaricare sulla gente il prodotto che, come dire, fa budget all'interno della banca e permette magari di ottenere determinati bonus? Questo so che è un discorso molto complicato, però non si dovrebbe partire anche da lì, non crede? Certamente sì, bisogna passare da una fase di contrapposizione e di lotta di ruolo tra il bancario da una parte, l'assicuratore da una parte e l'utente dall'altra, ad una fase di reciproca e rispettiva responsabilizzazione, ma di reciproco e rispettivo rispetto. È necessario che ci sia il riconoscimento dei ruoli di ciascuno, ma per esserci il riconoscimento dei ruoli di ciascuno deve esserci una competenza e una conoscenza sia pure di base di quelle che sono le questioni che vengono trattate. Io credo che se il nostro Paese, nell'insieme, se il nostro Paese, e con la senatrice Leddi stiamo lavorando anche per questo con un disegno di legge in questo senso, ecco, si passasse dalla fase della contrapposizione e degli scontri tra categorie o tra settori, a quello della responsabilizzazione, a quello di uno Stato che controlla ma ecco, lascia più liberi, dalla fase delle autorizzazioni a quella dei controlli, lasciando i cittadini liberi di operare nel rispetto della legge. Ecco, io credo che sarebbe un Paese molto, molto più libero, molto più sereno, e questo disegno di legge che si occupa più specificamente di norme in materia di educazione finanziaria e che è già stato avviato perché il Presidente della Commissione, il Senatore Cursi, ha già reso la relazione, li ha già accorpati, quindi voglio dire, le differenze peraltro tra i due disegni di legge sono talmente minime che certamente tutto si può unificare. Che si possa unificare e che si possa approvare anche abbastanza rapidamente. Dicevo, questi disegni di legge sono sicuramente collocati nel suo della responsabilizzazione e della conoscenza. Benissimo. Alla quale devono partecipare anche gli istituti di credito, le compagnie finanziarie, eccetera. Grazie al senatore Salvo Fleres, alla senatrice Maura Leddi. Il tempo a nostra disposizione anche questa mattina è volato, ma non appena questa iniziativa dovesse concretizzarsi io vi richiamo molto volentieri, e così cerchiamo anche di capire un po' di più che cosa potrebbe cambiare nel nostro Paese a partire dalla scuola, se tutto questo andasse avanti naturalmente, e magari vi faccio aiutare anche come politici ad aiutare i nostri ascoltatori ad essere un po' più forti nella trattativa con la banca, perché questo è un tema che ci piace molto, che ci appassiona, e quindi anche dal mondo politico ci piace capire un po' come la pensano. Grazie molte, Alessandro. Eccoci qua, allora, le 12, esatto. Salva Danaio. Un altro tema del quale non si sa moltissimo, almeno ce lo dicono molti ascoltatori, il fondo pensione, come va la previdenza complementare. Oggi abbiamo con noi il presidente della Covip, Finocchiaro, che per la prima volta interviene a Salva Danaio, e questo ci fa molto piacere, la commissione di vigilanza sui fondi pensione. 24 mattino. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie più importanti. È morto nella notte a Los Angeles Michael Jackson, a 50 anni era il re del pop, autore di Thriller, il disco che ha venduto più copie nella storia. È stato colpito da un malore nella sua villa, nulla è valsa la corsa in ospedale. Tra l'altro ne parleremo, vi ricordo, alle 8:45 parleremo anche della scomparsa dell'attrice americana Farrah Fawcett, avvenuta proprio ieri. In Italia, per il governatore di Banca Italia Draghi, il PIL avrà un calo quest'anno del 5%. Il premier Berlusconi non dà numeri precisi, ma fa capire che la previsione potrebbe essere certificata oggi al Consiglio dei Ministri. Berlusconi ha però aggiunto: forse la parte più negativa della crisi è alle spalle. E Berlusconi ha anche parlato dell'inchiesta di Bari, delle cene a Palazzo Grazioli. Io sono fatto così e non cambio, ha detto. In qualche cena abbiamo sbagliato l'ospite e l'ospite ha sbagliato a portare qualche altro ospite. Infine la cronaca: stavano giocando a calcetto ieri sera quando un uomo ha aperto il fuoco, è successo a Crotone. Gabriele Marrazzo, 35 anni, incensurato, è morto. Altre 7 persone sono rimaste ferite, tra cui un 15enne in modo molto grave. Ignoto il movente, ma sembra escluso un agguato legato alla criminalità. Questo alle 8:34 minuti. Allora, come detto e come annunciato, oggi è la giornata mondiale dedicata contro il consumo e il traffico illecito di droga. Devo dire che sui giornali, almeno sui giornali italiani, purtroppo, insomma, di questa notizia c'è davvero, davvero poco. Questa giornata è proclamata dall'ONU. Tra l'altro l'ONU ha un'agenzia mondiale a Vienna come sede che combatte il traffico della droga, non solo, il crimine. A capo di questa agenzia dell'ONU c'è un direttore che è italiano, si tratta di Antonio Maria Costa, che è nostro ospite, che saluto. Dottor Costa, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, le dispiace, non so se ha già visto i giornali, che i giornali italiani non abbiano dedicato su questo tema, che è un tema davvero purtroppo emergenziale, così tanto spazio? La stupisce oppure no? Mi stupisce, tutto sommato mi conferma certe preoccupazioni che ho già avuto. Noi dobbiamo riconoscere che la tossicodipendenza è una condizione di salute, è una malattia che si può prevenire come tutte le altre malattie. Riconoscere perciò l'importanza non tanto della giornata, questa è un'occasione annuale, ma riconoscere che c'è un problema tra di noi, che è un problema che si può prevenire, che si può trattare reintegrando i tossicodipendenti. Anche questa è una carenza in Italia che purtroppo vorrei chiedere all'autorità di emendare. A questo proposito, tra poco parleremo di un rapporto che annualmente, insomma, il suo ufficio emana, sempre ricco di dati, spunti e considerazioni interessanti. Però oggi leggevo anche sul Messaggero, proprio a proposito di percezione, una ricerca dell'ASL di Roma su 1800 giovani, la metà dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni è convinta che la cocaina sia una sostanza non pericolosa e ben accetta. La stupisce anche questo? Beh, non mi stupisce se relazioniamo questa osservazione all'ipotesi precedente che lei ha indicato, nella misura in cui la società si rifiuta di riconoscere il problema, di parlare del problema, di trattare del problema a scuola, perciò aiutando i giovani a comprendere. Se arrivano alle conclusioni alle quali lei è arrivato, ma c'è di peggio. Se lei guarda le statistiche nel nostro rapporto, lei vede che per esempio in un paese come la Svezia, un paese molto libero, molto aperto a tutto, diciamo, quando si fa la stessa domanda, analoga a quella condotta dalle ASL di Roma, la marijuana, altro prodotto ma non importa, altra droga, la marijuana è pericolosa o no? L'82% dei giovani nelle scuole superiori in Svezia risponde affermativamente, il 22% in Italia. Quando poi si guarda i risultati si vede che il consumo di marijuana tra i giovani in Svezia è molto basso, in Italia è molto alto, ma le due cose sono banali, però vanno messe insieme. E certo, se uno lo percepisce come un pericolo, un rischio. Allora, veniamo appunto innanzitutto a qualche numero, visto che voi all'ONU siete molto, molto precisi, insomma, nello stabilire anche quanto per esempio è il traffico, ci dica quanto vale il traffico illecito di droga nel mondo e quali sono le droghe, credo appunto la marijuana, la più utilizzata ancora nel mondo. Indubbiamente. Dunque, per parlare di utilizzo nel mondo, ci sono circa 200 milioni di persone al mondo, 5% della popolazione del pianeta, età di rilevante dai 14 ai 64 anni, che hanno provato droghe almeno una volta nell'arco dell'anno. Questa non è tossicodipendenza necessariamente, chi fuma una sigaretta di cannabis all'anno non può essere considerato un drogato. Drogati seri, cioè drogati da tossicodipendenza e perciò che necessitano cura, sono circa 35 milioni di persone, 0,5% della popolazione mondiale, il che indica naturalmente, permettimi di dire, un successo del controllo della droga, perché le altre sostanze da tossicodipendenza come il tabacco, che ammazza 5 milioni di persone all'anno, mentre la droga ne ammazza solo 200.000, il tabacco viene consumato o viene usato da 30% della popolazione rispetto allo 0,5%, cioè noi abbiamo effettivamente un controllo del prodotto, anche se in alcune comunità naturalmente c'è un abuso che è al di là di queste statistiche. Anche se purtroppo, insomma, l'incidenza della criminalità nel mercato della droga è ancora un'incidenza molto forte. Tra l'altro nel rapporto si punta molto su questo aspetto, anche nella prefazione. Lei esplora molto il dibattito che c'è lungo un secolo sulla questione dell'abrogazione del controllo della droga. Qualcuno ha scritto che l'ONU in maniera un po' prudente ha cominciato a mettere in dubbio il fatto che il controllo del mercato della droga ha mostrato qualche falla, ha mostrato qualche problema, ha mostrato qualche insuccesso. È così oppure no? Ma è più che così. Sono due anni che il mio ufficio apertamente, e in quest'ultimo rapporto, in un capitolo intero, il secondo capitolo, discutiamo proprio del disastro della criminalità organizzata, che è naturalmente prospera, che è legato al traffico di droga. Noi riconosciamo apertamente questo problema e non vederlo ovviamente renderebbe un disservizio alla comunità. Il problema vero, in effetti preannunciato da lei in apertura, è che mentre dobbiamo lottare, questo è l'auspicio mio e del rapporto, molto più severamente contro la criminalità organizzata, sarebbe una pazzia abbandonare i controlli sulla droga e perciò scambiare una riduzione del rischio sicurezza, abbattendo la forza della criminalità organizzata, con un altro rischio, un forte aumento della tossicodipendenza che distruggerebbe le nostre comunità. Il che vuol dire, perché qualcuno, allora, per esempio l'Huffington Post in America addirittura titolato l'ONU sostiene la depenalizzazione, o meglio la liberalizzazione, qualcuno dice questo assolutamente no, lei dice sarebbe il passo assolutamente sbagliato. Ma guardi, questo dibattito poi diventa semantico, cosa vuol dire una parola, cosa vuol dire l'altra. Noi da tempo, da anni, riteniamo che il tossicodipendente è un malato che va curato, va portato in ospedale, non deve essere messo in prigione. In tanti paesi viene imprigionato, incarcerato e ne esce peggio, più tossicodipendente magari un giovane apprendista criminale. Questa è la depenalizzazione, se vogliamo la decriminalizzazione del consumo. Ma mentre noi proteggiamo il tossicodipendente, che è un poveretto che deve essere assistito, o un malato che deve essere assistito, noi vogliamo essere estremamente severi contro la criminalità organizzata che sfrutta da un lato i poveri contadini in Colombia, in Afghanistan e in Birmania che coltivano e guadagnano nulla, e sfrutta il tossicodipendente che ha questa condizione e che perciò lo porta a commettere furti, a commettere rapine, a commettere tutto pur di avere soldi per mantenere la propria. Ma perché liberalizzare no, direttore? Ma guardi, facciamo esempi, noi abbiamo il tabacco che è una sostanza ugualmente dannosa, come dicevo prima, che porta alla morte di 5 milioni di persone a causa proprio del tabagismo all'anno. Se noi ed è consumata dal 30% della popolazione. Se noi vogliamo legalizzare, rendere la droga ammissibile, perciò liberamente acquistabile in negozio non so dove, rischiamo di portare, e indubbiamente succede, rischiamo di portare la tossicodipendenza dai livelli di oggi, 0,5, meno di 1% della popolazione, ai livelli del tabagismo, ma io credo che questa sarebbe una pazzia che l'umanità non si può permettere né ora né in futuro. Però molti dicono così si stroncherebbe tutto quel mercato nero, criminale, anche con non solo con il fiume di denaro, ma anche con la criminalità annessa, insomma il sangue vero e proprio. Innanzitutto, la criminalità non si nutre solo di traffico di droga, c'è traffico di armi, ci sono contraffazioni, c'è il riciclaggio del denaro, ci sono i ricatti, ci sono i sequestri di persona, c'è la pirateria, c'è tutta una gamma di attività verso la quale la criminalità organizzata si è orientata da anni e sulla quale prospera, in primo luogo. In secondo luogo, ma perché dobbiamo cercare di abbassare il controllo sulla salute pubblica della nostra società per ridurre le mafie? Dobbiamo ridurre le mafie senza abbandonare i controlli sulla salute pubblica, per non dover poi pagare tra anni, negli anni, uno scotto ancora più alto. Direttore Costa, lei tra l'altro è a Trieste, giusto per concludere questa nostra intervista, lei è a Trieste al G8, dove ovviamente mi è piaciuto molto l'approccio a dire non colpiamo i tossicodipendenti, come succede purtroppo spesso in varie parti del mondo, magari criminalizzandoli, mettendoli in carcere, ma utilizziamo magari la repressione più verso i traffici, verso la criminalità. C'è qualcosa di concreto che emergerà come proposta possibile oggi a Trieste? Ma io credo di sì, però limitata a un teatro particolare, la riunione di Trieste dei ministri degli esteri, alla quale farò una presentazione nel corso della giornata, si concentra sull'Afghanistan, che naturalmente è la fonte primaria della quasi totalità della droga usata in Italia, per esempio, io parlo dell'eroina o parlo della morfina e naturalmente dell'oppio. Perciò io ritengo che, o spero ci siano misure importanti che rafforzino lo sviluppo degli ultimi 2 anni, caratterizzati da una riduzione delle coltivazioni di oppio in Afghanistan, rafforzando la sicurezza, assistendo i contadini affinché abbandonino volontariamente la coltivazione di oppio, e perciò portando un miglioramento della situazione della droga dal lato offerta, dal lato produzione. L'ultimo aspetto che in conclusione vorrei trattare, non l'abbiamo toccato, ma è quello un altro dramma, soprattutto che coinvolge i più giovani, è quello delle droghe sintetiche, no? E ripeto, lì in quel caso l'età del consumo si abbassa, lo sappiamo, anche nei luoghi, le discoteche, i rave party, purtroppo. È davvero un'emergenza, magari parliamo dell'Italia anche, se possibile, un'emergenza nazionale che sta aumentando? Ma noi abbiamo visto il seguente profilo storico nel consumo delle sostanze sintetiche. Iniziato il processo verso gli anni 97-98, un decennio fa, 12 anni fa, crescendo in maniera molto rapida, soprattutto in Europa, la forza motrice era la produzione di ecstasy in Olanda. A partire dal 2003 si è stabilizzato nei paesi ricchi, nei paesi occidentali, anche in Italia, e ripreso fortemente negli ultimi 2 anni nel sud-est asiatico e nei paesi del Golfo. Per esempio, stranamente, o comunque da notare, il fortissimo incremento nell'Arabia Saudita. In Italia il problema rimane serio, ma non lo vediamo in crescita, anche in parte attraverso il riconoscimento da parte dei nostri giovani del danno che le droghe sintetiche arrecano, e naturalmente lo sforzo deve essere maggiore. Io la ringrazio, Antonio Maria Costa, voglio ricordare il direttore dell'Agenzia delle Nazioni Unite che ha sede a Vienna, che combatte la droga, il crimine, e grazie, insomma, oggi è la giornata mondiale dell'antidroga, è a Trieste a parlare, è anche insomma un po' l'orgoglio di avere i concittadini, i connazionali che si mettono in luce insomma su in settori molto molto importanti e strategici. La ringrazio ovviamente. È uno dei successi, dei tantissimi successi, questo è Black or White di Michael Jackson, che avete sentito nella notte è morto a Los Angeles. Tra l'altro, allora, basta guardare la TV, BBC per esempio, la BBC stanno parlando in breaking news da 2 ore, tra l'altro ci sono le immagini anche di Michael Jackson trasportato in elicottero, ormai morto e trasferito su un'ambulanza. Questa era la BBC, ma se andiamo a Fox News adesso sono in pubblicità, ma ne stanno parlando, la CNN, immagini di Michael Jackson, testimonianze e insomma. Io voglio andare a Los Angeles, dove quasi mezzanotte, credo. Saluto Luciano Palermi, buongiorno, buona serata, Luciano. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Luciano Palermi, tra l'altro, è la voce, una delle voci del canale E-Entertainment, che trovate anche sulla piattaforma Sky, credo al 124, spero di non sbagliarmi. Luciano, allora, innanzitutto è stata improvvisa, diciamo, questa morte. So che credo anche Michael Jackson stesso abbia chiamato l'ospedale in grave difficoltà e poi, insomma, quando sono arrivati era già praticamente morto. È stata però una morte improvvisa? È stato assolutamente inaspettato. Infatti la notte scorsa Michael Jackson era reduce da delle prove che ha fatto al Forum di Inglewood, che era stato proprio affittato per preparare questa tournée di 50 spettacoli, già sold out, già tutto esaurito a Londra. Era stato convinto a ricominciare la sua carriera, perché poi Michael Jackson non versava in ottime condizioni economiche, poi anche per i processi che c'erano stati nei suoi confronti, comunque era in un debito pesantissimo. Quindi stava organizzando la tournée, sarebbe dovuta iniziare il 13 di luglio, e 50 spettacoli soltanto nella zona di Londra, tutto esaurito, e stava facendo prove a ritmo anche abbastanza forsennato, 4 giorni a settimana, 6 ore al giorno. Pare però che tornando a casa nella sua abitazione a Holmby Hills, che era quella che aveva scelto dopo l'abbandono del ranch, avesse delle difficoltà respiratorie, e chiaramente poi di lì a poco, insomma, una serie di problemi di svolto, certo. Questo avvenimento, arresto cardiaco e... No, ma tra l'altro è incredibile come effettivamente in America in questo momento, non so se tu puoi confermare, è tarda sera, non si parla d'altro, ho visto dichiarazioni, hanno parlato ovviamente anche i parenti, Janet Jackson, ma anche Madonna, ha parlato Liz Taylor, Liza Minnelli, Elton John, che ha detto credo canterò io a Londra per lui, anche se vogliamo ricordare, insomma, come definirlo, il re del pop, l'uomo che ha venduto più dischi al mondo, ma anche una delle persone più controverse su cui si è detto di tutto. Ricordiamo anche appunto il processo che subì e tra l'altro con le accuse infamanti di pedofilia, un processo che tra l'altro tu seguisti, perché ci fu anche tutta questa fiction che ricostruì il processo nel processo sul canale E. Quindi figura molto controversa. Assolutamente sì, anche perché tutto sommato c'è chi sostiene che, insomma, i suoi soldi siano stati quelli che l'abbiano fatto scagionare in qualche modo, perché le accuse erano molto pesanti, molto ben documentate in qualche modo, ha utilizzato gli avvocati migliori di Los Angeles per potersi difendere in qualche modo, 80 milioni di dollari di debito soltanto per le spese processuali relative appunto a quelle imputazioni, questo avveniva nel 2005, il processo si concluse tra l'altro pochi giorni fa nel 2005, il 13 di giugno. E in quell'occasione però ricordo che si era visto un Michael Jackson un po' malconcio, claudicante, addirittura ricordo che ebbe un malore nel tribunale che costrinse il giudice a spostare l'udienza di un giorno. In realtà c'era un po' questa dicotomia nella sua immagine, perché tanta era l'energia, la spettacolarità, l'elettricità che emanava sul palco, tanto in realtà lo si era visto sempre un po' più malconcio appunto fisicamente nelle sue ultime quanto rare apparizioni pubbliche. A proposito di apparizioni, noi abbiamo recuperato, sempre Fox News ha rimandato in onda un'intervista proprio risalente al 2005, immagino dopo la soluzione di quel processo. Vogliamo sentire anche un attimo il stralcio della voce, questa voce molto particolare, bisogna dire. I love it, and that's the world I'm most comfortable in. In Gary, Indiana. C'è ovviamente l'intervistatore. I never thought about it, really. I never thought about it. I knew I wanted to do something wonderful on my life. Anche questa voce così molto particolare, qualcuno dice anche questa, una voce modificata, insomma, era anche ci sono davvero tanti Michael Jackson, non era quello dei Jackson 5, tutte le operazioni di estetica per cambiare i lineamenti, le operazioni alla pelle anche per schiarirsi. In questo, Luciano, una persona molto controversa, come sta reagendo l'America? Certo, questo è il momento dello sbigottimento, so che ci sono tantissimi fan che si sono riuniti all'ospedale, si riuniscono anche attorno alla sua residenza, però effettivamente c'era questo doppio atteggiamento, da una parte di grande riconoscenza per le capacità artistiche, dall'altra parte di un po' di stupore anche in alcuni suoi comportamenti, o no? Beh, è un personaggio sicuramente che aveva delle grandissime ombre, per certi versi è stato un camaleonte nel corso di tutta la sua carriera, e l'immagine pubblica, l'immagine dell'artista, l'immagine della persona privata, tutto sommato non erano separabili, a differenza di quanto avviene magari con altre star. Un uomo che ha cambiato, se vogliamo, ha stravolto quelli che sono i limiti, i confini della razza, i confini per certi versi anche della sessualità. Un personaggio molto controverso sicuramente, in tutta la sua grandezza. E in questo anche percepito. No, dimmi. La reazione qui a Los Angeles è stata ovviamente di shock, centinaia di persone che appunto sono radunate prima all'ospedale, poi alla sua abitazione. C'è una piccola curiosità, una cosa che può far sorridere in questo contesto, è che in realtà centinaia di fan di Michael Jackson sono andati a portare dei fiori sulla stella dell'Hollywood Boulevard, sul marciapiede dell'Hollywood Boulevard, della famosa passeggiata. Sì, solo che hanno sbagliato. La scelta sbagliata. Hanno sbagliato. Sì, però di un annunciatore radio della ABC. Luciano, noi dobbiamo chiudere, se abbiamo 20 secondi, perché io ho detto c'è stata un'altra scomparsa che è stata un po' offuscata forse dalla vicenda di Michael Jackson, è quella di Farrah Fawcett. Farrah Fawcett è una straordinaria donna, bellissima donna, quella che a 62 anni fece anche un documentario esponendo la sua malattia, anche qui tra polemiche oppure consensi negli ultimi tempi. Anche qui reazione di Los Angeles per la scomparsa di questa stella del cinema. Sebbene in tono minore, perché era la cronaca di una morte annunciata, si sapeva. La cosa più controversa fu proprio il documentario in sé, in quanto esponeva questa sua condizione con quell'ottimismo che forse per noi europei spesso risulta anche un po' fastidioso, comunque non proprio comprensibile, quella desiderio di rivalsa anche nei confronti di una condizione che sicuramente avrà la meglio alla lunga. Quindi un personaggio eroico, molto forte per certi versi, però forse quel voyeurismo della telecamera che inquadra anche i momenti più inclementi della malattia sono quelli che forse hanno turbato la coscienza, non dico tanto degli americani quanto forse degli europei, che sono abituati ad un gusto diverso, forse anche un po' più di pudore, se vogliamo, nei confronti della morte o della malattia. Su questo non c'è dubbio. Io ringrazio Luciano Palermi, che è la voce, insomma lavora, lo potete sentire anche a E! Entertainment su canale 124 di Sky, ci parlava da Los Angeles, una Los Angeles sicuramente turbata, colpita da queste due morti, anche se diverse, una improvvisa, quella di Michael Jackson, una più annunciata, quella appunto di Farrah Fawcett. Ci fermiamo qui, tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, e non mi resta che salutare Laura Marchesi, Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e darvi appuntamento a lunedì mattina.